Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Un pomeriggio, era giugno ormai, Fabrizio sentì dei colpi di cannone in lontananza. Si combatteva finalmente. Era fuori di sé dall'impazienza. Sentì anche un gran rumore per le strade. Erano 3 divisioni che attraversavano il paese. La sera, verso le 11, la moglie del guardiano venne a condividere le sue pene. Fabrizio fu ancora più gentile del solito. Poi, stringendole le mani, «Fammi uscire. Ti giuro sul mio onore che quando la battaglia sarà finita tornerò in prigione». «Senti», gli disse lei, «se puoi sborsare un centinaio di franchi, chiuderò con un bel Napoleone doppio tutti e 2 gli occhi del caporale che monta di guardia la notte. Così non ti vedrà quando scapperai. Se il suo reggimento va via in giornata, quello ci sta». L'affare fu concluso e la donna acconsentì anche a nascondere Fabrizio nella sua stanza, perché così il mattino dopo gli sarebbe stato più facile evadere. Prima dell'alba gli disse, tutta intenerita, «Bambino mio, sei ancora troppo giovane per questo brutto mestiere, lascia perdere, dammi retta». «Ma che cosa dici?» ripeteva Fabrizio. «È forse un crimine voler difendere la patria?» «Piantala, ricordatelo sempre. Ti ho salvato la vita, io. Non c'eran santi, ti avrebbero fucilato. Ma non dirlo a nessuno, perché ci faresti perdere il posto a me e a mio marito. E poi, non tirarla più fuori, quella storia del signore di Milano travestito da venditore di barometri. È troppo cretina. E adesso sta a sentire. Ti darò la divisa di un ussaro che è morto in prigione l'altro ieri. Parla meno che puoi, ma se proprio capiti con un sergente o con un ufficiale che ti obbligano a rispondergli, di che sei stato malato in casa di un contadino che ti ha trovato in un fosso con la febbre e ti ha portato a casa sua per compassione. Se non si contentano di questa risposta, di che stai per tornare al tuo reggimento. Con quell'accento che hai, può anche darsi che ti arrestino. E allora di che sei nato in Piemonte, che sei un coscritto che è rimasto in Francia l'anno scorso e altre cose del genere. Per la prima volta, dopo 33 giorni di rabbia, Fabrizio si rese conto di come stavano le cose. Lo avevano preso per una spia. Ne parlò alla donna, che era molto affettuosa con lui quella mattina, e alla fine, mentre lei stringeva un po' l'uniforme dell'ussaro, le raccontò la sua storia senza nasconderle niente. La donna era tutta stupita, ma per un momento gli credette. Aveva un'aria talmente ingenua e stava così bene, vestito da ussaro. Appena uscito dal paese, impettito con la sua brava sciabola da ussaro sotto il braccio, Fabrizio fu preso da qualche scrupolo. «Eccomi qua», pensò, «con la divisa e i documenti di un ussaro morto in prigione, e a quanto pare ci è finito per aver rubato una mucca e qualche posata d'argento. Si può dire che ho preso il suo posto, e senza che io l'abbia voluto o previsto in nessun modo. Occhio alla prigione, è un presagio, è evidente. Vuol dire che avrò delle brutte sorprese con la prigione». Meno di un'ora dopo che aveva lasciato la sua benefattrice, incominciò a piovere. Pioveva tanto che Fabrizio, con quegli stivalacci fuori misura, riusciva appena a camminare. Poi incontrò un contadino in groppa a un cavallo malandato e glielo comprò, spiegandosi a gesti, senza parlare, come gli aveva detto la moglie del guardiano. Quel giorno l'esercito, dopo aver vinto la battaglia di Ligny, stava marciando diritto su Bruxelles. Era la vigilia di Waterloo. A mezzogiorno, pioveva ancora a dirotto, Fabrizio sentì qualche colpo di cannone. Era felice, non pensava più alla rabbia e alla disperazione che aveva provato a essere imprigionato così ingiustamente. Camminò fino a notte fonda. Incominciava ad avere un po' di buon senso adesso e andò a chiedere alloggio in una casa di contadini molto lontana dalla strada. Il contadino piangeva, diceva che gli avevano portato via tutto. Fabrizio gli diede uno scudo e quello fece saltar fuori un po' d'avena. «Non è granché come cavallo», pensò Fabrizio, «ma ci potrebbe sempre essere qualche aiutante capace di farselo piacere». E andò a dormire nella stalla. Il giorno dopo, un'ora prima dell'alba, Fabrizio era già sulla strada. A furia di carezze era riuscito a mettere il cavallo al trotto. Verso le 5 sentì sparare i cannoni. Era l'inizio di Waterloo. Poco dopo, Fabrizio incontrò un gruppo di vivandiere. L'infinita gratitudine che sentiva per la moglie del guardiano della prigione lo indusse a parlare a quelle donne. Chiese a una di loro dove fosse il suo reggimento, il 4° Ussari. «Faresti meglio a non aver tanta fretta, soldatino», disse quella, commossa dal pallore e dai begli occhi di Fabrizio. «Non hai ancora il polso abbastanza fermo per le sciabolate che si daranno oggi». «Se almeno avessi un fucile, non dico, qualche colpo potresti tirarlo anche tu, né più né meno degli altri. Bisogna che in primis tu ti compri un altro cavallo. Guarda il tuo come drizza le orecchie quando si sente sparare un po' più da vicino. È un cavallo di contadini, ti farà ammazzare appena arrivi in linea. Lo vedi quel fumo bianco là in fondo sopra la siepe? Colpi di fucile, caro mio, ne avrai di fifa, sta sicuro, quando sentirai fischiare le pallottole». Faresti meglio a mandar giù un boccone finché sei in tempo. Non vedi come muove le orecchie il tuo cavallo? Non ne ha molta di forza, ma appena arrivi là ti prende la mano, si metterà a galoppare e Dio sa dove ti porterà. Dammi retta. I primi soldati che trovi, prendi un fucile e delle giberne, stagli vicino e fa tutto quello che fanno loro. Ma scommetto che non sai neanche come si fa a preparare una cartuccia. Fabrizio aveva un'aria molto offesa, ma dovette confessare alla sua nuova amica che era vero. «Poverino, l'ho detto, si farà ammazzare come vero Dio, e in 4 e 4/8. No, devi venire con me, non c'è altro da fare», disse la vivandiera in tono di comando. «Ma io voglio combattere». «Riuscirai a combattere lo stesso, sta tranquillo. Il 6° mobile è un reggimento famoso, e oggi ce ne sarà per tutti. Sarà ancora lontano il vostro reggimento?» «Ci saremo tra un 15 minuti al massimo». «Avrai tempo domani per combattere, ragazzo», gli disse dopo un po'. «Sta con me per oggi. Devi pure impararlo, il mestiere di soldato, lo capisci anche tu?» «No, voglio combattere subito», gridò Fabrizio, e la donna si tranquillizzò a vedere la sua faccia scura. La strada si addentrava in un piccolo bosco. 3 o 4 soldati francesi vennero verso di loro di corsa. La vivandiera saltò in fretta giù dalla carretta e corse a nascondersi a una ventina di passi dal sentiero, in una buca rimasta dove avevano sradicato un grosso albero. «Voglio proprio vedere se sono un vigliacco», pensò Fabrizio. Si fermò vicino alla carretta, sguainò la sciabola. I soldati non lo guardarono neanche, corsero via lungo il bosco a sinistra della strada. «Sono dei nostri», disse la donna con calma mentre tornava, sbuffando verso la carretta. «Se il tuo cavallo fosse capace di correre, ti direi di andare dove finisce il bosco e di guardare se c'è qualcuno sulla pianura». Fabrizio non se lo fece dire due volte. Strappò un ramo di pioppo, ne staccò le foglie e si mise a frustare il cavallo con tutta la sua forza. Dopo qualche metro al galoppo, il cavallo riprese a trotterellare come al solito. «Se almeno sapessi dov'è il reggimento», diceva la donna indecisa, «non c'è da fidarsi a attraversare il prato». «Tu, a proposito», disse poi a Fabrizio, «se ti vieni contro un soldato nemico, infilzalo, non stare a perdere tempo a tirargli fendenti». In quel momento i 4 soldati di prima vennero fuori dal bosco sulla sinistra del sentiero. Uno era a cavallo. «Ecco quello che ci vuole per te», disse la donna a Fabrizio. Poi gridò al soldato a cavallo. «Ehi tu, vieni a bere un sorso d'acqua vite!» I soldati si avvicinarono. «Dov'è il 6° mobile?» chiese la donna. «Là in fondo, a 5 minuti da qui, dopo quel canale sotto i salici. Hanno ammazzato il colonnello Masson, che è poco». «Senti un po', tu, lo vendi per 5 franchi il tuo cavallo?» 5 franchi? Vuoi scherzare, bambina? 5 franchi per un cavallo da ufficiale che posso venderlo quando voglio per 5 napoleoni? «Dammi un napoleone», disse la donna a Fabrizio. Poi andò vicino al soldato a cavallo. «Sbrigati, smonta», gli disse. «To' il tuo napoleone». Il soldato scese da cavallo e Fabrizio saltò in sella tutto contento. La donna stava cercando di levare il piccolo portamantelli legato alla sella del ronzino di Fabrizio. «E allora, me la date o no una mano?» disse ai soldati. «È così che si lasciano lavorare le signore?» Ma appena gli misero addosso il portamantelli, il cavallo si impennò e Fabrizio, che pure era un ottimo cavaliere, dovette mettercela tutta per poterlo trattenere. «Buon segno», disse la donna. «Non gli piace il solletico a questo signorino». «Un cavallo da generale», gridava il soldato che lo aveva venduto. «Un cavallo che pagarlo 10 napoleoni è niente». «Questi sono 20 franchi, prendili», disse Fabrizio, che non stava più nella pelle a sentirsi tra le gambe un cavallo così vivace. Fabrizio era ancora tutto preso da quel che aveva visto quando un gruppo di generali, scortati da una 20ina di ussari, attraversarono obliquamente il prato al galoppo. Il cavallo di Fabrizio incominciò a nitrire, si impennò 2 o 3 volte di seguito, poi diede grandi colpi con la testa tirando le briglie. «E va bene», pensò Fabrizio. Lasciato a se stesso, il cavallo corse in avanti ventre a terra e andò a raggiungere la scorta che seguiva i generali. Fabrizio contò 4 cappelli gallonati. Dopo un quarto d'ora, ascoltando quello che gli diceva un ussaro che gli cavalcava vicino, Fabrizio si rese conto che uno di quei generali era il famoso maresciallo Ney. La sua felicità era al colmo, però non riusciva a capire quale dei 4 generali fosse il maresciallo. Avrebbe dato qualsiasi cosa per saperlo, ma si ricordò che non doveva parlare. La scorta si lanciò al galoppo. Attraversarono un gran campo coltivato. Era pieno di morti. «Giubbe rosse! Giubbe rosse!» gridavano gli ussari della scorta e sembravano molto soddisfatti. Fabrizio non capiva. Poi si rese conto che tutti quei morti erano vestiti di rosso. Si sentì rabbrividire dall'orrore. Molti di quei soldati erano ancora vivi, invocavano aiuto, ma nessuno si fermava per aiutarli. Fabrizio, con molta umanità, faceva di tutto perché il suo cavallo non calpestasse qualcuna di quelle giubbe rosse. Gli altri si erano fermati e lui, non molto ligio al suo dovere di soldato, continuava a galoppare, gli occhi fissi su un ferito. Qualche istante dopo, guardando davanti, Fabrizio vide a una 20ina di passi che la terra di un campo sembrava in subbuglio. I solchi erano pieni di acqua e dai mucchi di terra umida che si alzavano tra un solco e l'altro volavano in aria piccoli frammenti neri. Era molto strano e Fabrizio, passando, si voltò a guardare, poi ricominciò a pensare al maresciallo e alle sue glorie. Sentì gridare alle spalle un grido secco. 2 ussari stavano cadendo da cavallo, colpiti già lontano. La cosa più orribile era un cavallo. Si contorceva tra i solchi, coperto di sangue, le zampe impigliate negli intestini. Voleva andar dietro agli altri cavalli. Il sangue colava nel fango. «Ah, ci sono finalmente in una battaglia!» pensò Fabrizio. «Ho visto una battaglia!» si ripeteva tutto soddisfatto. «Adesso sì che sono un vero soldato!» Stavano galoppando a briglia sciolta e Fabrizio si rese conto che erano le palle di cannone a far volare pezzi di terra da tutte le parti. Aveva un bel guardare dalla parte da cui venivano le cannonate. Vedeva soltanto lontanissimo il fumo bianco delle batterie e tra il brontolio monotono e ininterrotto degli spari gli sembrava di sentire scariche di fucileria molto più vicine. Non ci capiva assolutamente niente. Improvvisamente Fabrizio vide venire dalla parte del nemico quattro uomini al galoppo. «Ci attaccano!» pensò. Ma due di quegli uomini stavano già parlando con il maresciallo. Poi uno dei generali partì al galoppo seguito da due ussari e da quei quattro uomini. Il gruppo si mosse, passò un piccolo canale. Fabrizio si trovò vicino al sergente, lo guardò, vide che aveva un'aria da bonaccione. «Bisogna che gli parli», pensò. «Forse così la smetteranno di guardarmi». Ci pensò un bel po', poi gli disse: «Signore, è la prima volta che vedo una battaglia. Ma è veramente una battaglia questa?» «Direi. Ma tu chi sei?» «Sono il fratello della moglie di un capitano». «E come si chiama questo capitano?» Era una domanda terribilmente imbarazzante per il nostro eroe. Non l'aveva prevista. Per fortuna in quel momento tutto il gruppo si rimise a galoppare. «Che nome posso dire?» pensava Fabrizio. Alla fine gli venne in mente il nome del suo albergatore di Parigi. Guidò il suo cavallo vicino a quello del sergente e urlò più forte che poteva: «Il capitano Meunier!» Ma con tutto quel fracasso il sergente non riuscì a capire bene e rispose: «Ah, il capitano Tellier è morto!» «Benissimo», pensò Fabrizio, «il capitano Tellier. Qui bisogna fare la faccia triste». «Dio mio!» gridò con un'aria molto addolorata. Thank you. Alla prima sosta, guardandosi intorno, Fabrizio vide una carretta. Il suo affetto per il rispettabile corpo delle vivandiere era troppo forte e partì al galoppo. Tutte le carrette si assomigliavano, ma la vivandiera era un'altra e aveva un'aria piuttosto antipatica. Avvicinandosi, sentì che diceva: «Pensare che era così un bell'uomo». Fabrizio guardò. Era un brutto spettacolo. Stavano tagliando una gamba alla coscia a un corazziere, un bel giovane alto. Fabrizio chiuse gli occhi, poi mandò giù uno dopo l'altro quattro bicchieri d'acqua vite. Di colpo sentì che il sergente gridava: «Sacramento, ma non vedete l'imperatore?» Gli ussari urlavano a squarciagola: «Viva l'imperatore!» Fabrizio guardò freneticamente, gli occhi spalancati, ma vide soltanto un gruppo di generali che passavano in fretta, seguiti da una scorta. Non riuscì a vedere le facce tra l'ondeggiare delle lunghe criniere sugli elmi dei dragoni. Per colpa di quella maledetta acquavite non sono riuscito a vedere l'imperatore sul campo di battaglia, pensò. Si sentiva completamente lucido dopo questa considerazione. Presero per un altro sentiero pieno d'acqua. I cavalli si misero a bere. «Era l'imperatore quello che è passato?» chiese Fabrizio all'ussaro che gli stava vicino. «Certo! Era quello che non aveva ricami sulla giubba. Come hai fatto a non vederlo?» gli rispose l'altro, molto gentile. Fabrizio aveva una gran voglia di correre dietro alla scorta dell'imperatore. Sarebbe splendido fare davvero la guerra con lui, pensò. Era pur venuto in Francia per questo. Sono padrone di farlo quando voglio. In fondo, se sono qui, è soltanto perché il mio cavallo si è buttato dietro a questi generali. Ma decise di restare. I suoi nuovi compagni, gli ussari, lo guardavano con simpatia adesso. Incominciava a sentirsi amico intimo di tutti i soldati con cui stava cavalcando da qualche ora. Era la nobile amicizia che univa gli eroi del Tasso e dell'Ariosto, quella. Poi, uscendo dal sentiero, si accorse che la scorta non seguiva più il maresciallo Ney. Davanti adesso c'era un generale alto, magro, con una faccia asciutta e uno sguardo tremendo. Quel generale era il conte di A, il tenente Roberto del 15 maggio 1796. Che gioia avrebbe provato a vedere Fabrizio del Dongo. Il sole era già molto basso, stava tramontando. La scorta lasciò un sentiero e salì per un breve pendio verso un campo coltivato. Fabrizio sentì un rumore strano, basso, vicinissimo. Si voltò. Quattro uomini erano caduti con i cavalli. Anche il generale era caduto, ma stava alzandosi. Il sergente venne verso Fabrizio. Il nostro eroe sentì che qualcuno, molto vicino, alle sue spalle, stava dicendo: «È il solo cavallo che sia ancora capace di galoppare». Si sentì prendere per i piedi e poi per le ascelle. Lo tirarono su, lo fecero passare al di sopra della groppa del cavallo, poi lo lasciarono andare e si trovò seduto per terra. L'aiutante di campo teneva adesso il suo cavallo per la briglia. Il generale, aiutato da sergente, montò in sella e corse via al galoppo. I sei soldati superstiti lo seguirono subito. Fabrizio si alzò in piedi, furibondo, si mise a corrergli dietro, gridando in italiano: «Ladri! Ladri!» Era divertente correre dietro a dei ladri su di un campo di battaglia. Era disperato, e non tanto per la perdita del cavallo, quanto per il tradimento. Si sedette sulla riva del canale, era stanco, moriva di fame. Se il suo bel cavallo glielo avessero portato via i nemici, non gliene sarebbe importato niente. Ma vedersi tradito e derubato da quel sergente a cui voleva tanto bene, da quegli ussari che gli sembravano come tanti fratelli, era questo che gli spezzava il cuore. Non riusciva a consolarsi. Appoggiò la schiena contro un salice, si mise a piangere. Stava disfacendo uno dopo l'altro tutti quei bei sogni di sublime amicizia cavalleresca, come nella Gerusalemme liberata. Sarebbe stato niente morire con intorno amici eroici e affettuosi, nobili amici che ti stringono la mano al momento dell'ultimo respiro. Ma dove va a finire l'entusiasmo se ci si trova in mezzo a una banda di mascalzoni? Entrò in un bosco non riusciva più a tenersi in piedi. Si guardò intorno cercando un posto per buttarsi giù a riposare e vide il cavallo e poi la carretta e poi la vivandiera che aveva conosciuto la mattina. Lei gli stava correndo incontro, lo guardava come se fosse spaventata dalla sua faccia. «Cerca di camminare ancora un po', ragazzo», gli disse. «Sei ferito. È il tuo bel cavallo». E intanto lo portava verso la carretta. Lo aiutò a salire, tenendolo per un braccio. Appena dentro, il nostro eroe, esausto, si addormentò. Pietro Biondi ha letto La Certosa di Parma di Stendhal, riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.